la luce lontana e la stella di notte illumina le terre di Teatro. Il silenzio è interrotto dal vento, intorno solo freddo, nulla si muove. Da una finestra il Proderudus è vigile sulla città di Elmor. Una luce abbagliante illumina il tutto. La cometa di Ibua appare dall'oscurità, portatrice di brutti presagi, indica a Rudus pericoli vicini. Un incubo lo avvolge, mentre la notte lascia spazio al giorno che verrà.